Buongiorno a tutte e tutti. Siete sempre sintonizzati sugli 87.9. Questa è Radio Onda Rossa. E noi vi diamo il benvenuto a una nuova stagione di Attica Blues. In realtà ve lo do solo io, il buon Pietro è ancora in vacanza, ma non vi preoccupate, settimana prossima sarà ancora qui e omaggeremo la figura di Aretha Franklin. Come detto, benvenuti a questa nuova stagione Attica Blues, quindi Black Music qui a Radio Onda Rossa, sempre il giovedì e sempre alle 16, più o meno puntuali. E allora, dopo un frizzante agosto, spero anche per voi, ritorniamo e ritorniamo con il nostro viaggio intorno alla Black Music. Avevamo iniziato a luglio partendo dall'Africa, dal Mali, quindi scendendo poi in Sudafrica e attraversando un po' tutta l'Africa occidentale. E poi da lì ci siamo spostati ancora in Brasile, poi Caraibi e per finire a New York. È proprio da New York che ricominciamo il nostro viaggio e qui incontriamo un trombettista chiamato Dave Douglas, un trombettista cresciuto nell'area di New York. Lui ha iniziato a suonare il piano all'età di 5 anni e poi è passato al trombone e all'età di 9 invece ha abbracciato la tromba, e così diventando ben presto uno dei più originali trombettisti e compositori della sua generazione. Adesso ce l'ascoltiamo qui nel suo quintetto e in un brano registrato proprio a New York il 1 febbraio del 2006. Dave Douglas Quintet, questa è Meaning and Mystery. (0649) 1750 è sempre il nostro numero di telefono, www.ondarossa.info è invece il sito della radio dove troverete tutti i nostri anche podcast e scalette, e vi ricordiamo anche le pagine social di Attica Blues su Facebook, Twitter e Instagram. Fatevi sentire. artista estremamente versatile che cita esplicitamente come sue influenze quelle di Igor Stravinsky, Stevie Wonder e John Coltrane. Stile poi trombettistico anche che ricorda quello di Lester Bowie, insomma, se vi capita tenetelo d'occhio, Dave Douglas. Classe 1963. Qui invece al tenore troviamo Donny McLaslin al piano, Uri Kane, James Genus al contrabbasso e Clarence Penn alla batteria. Meaning and Mystery. Rimaniamo a New York con un altro trombettista, lui è Roy Hargrove, classe 1969, e già dagli anni 80 è uno dei più brillanti e acclamati trombettisti sulla scena newyorkese e americana. Lui che fu scoperto nel 1987 da Wynton Marsalis e poi da lì appunto si trasferì a New York per completare brillantemente la sua carriera. E lui che tra l'altro è un trombettista acustico, e però si rifà anche alle sonorità più black, come in questo caso col suo Roy Hargrave Factor, in cui appunto miscela i suoni del jazz con quelli R&B e soul. Questa che ci ascoltiamo è Crazy Race. Get up on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what we have in store. Some people had to stand in line to get up in this place. Time is surely hot, pick up your guard in this crazy race. We about to get up on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what we have in store. Some people had to stand in line to get up in this place. Time's surely hot, pick up your gun in this crazy race. Che ha vinto anche un Grammy come miglior album, vincitore appunto di un Grammy come di musica afro-cubana, si chiamava Habana, uscito per la Verve, così come questo Distraction, da cui ci ascoltiamo un'altra traccia, questa è Bullshit. E qui compare anche una figura leggendaria dell'R&B come D'Angelo, in veste di cantante e anche produttore del brano. Man, Roy Hargrove, che ha anche suonato in alcuni dei più bei dischi di R&B e New Soul degli anni 90, fra cui quelli di Erykah Badu e appunto anche quelli di D'Angelo. Oh no. E da Manhattan ci spostiamo al Queens, dove nel 1988 si formò senza dubbio il gruppo rap più intelligente e artistico degli anni 90. E stiamo parlando di quella formazione chiamata Tribe Called Quest, che ha fatto fare il salto e perfezionato l'alternativa hip hop all'hardcore e al gangsta rap. Loro che poi firmarono per la Jive Records e nel 1989 pubblicarono il loro primo album People Instinctive Travels and the Path of Rhythm. Ed è proprio da questo album che ci ascoltiamo I Can't Kick It, un brano che ha saccheggiato un altro cantautore che ha cantato indubbiamente New York, ossia Lou Reed. E questo, loro hanno campionato Walk on the Wild Side e lo hanno reso praticabile in un contesto hip hop. E allora a Tribe Called Quest. Attica Blues. Kick it to all the people who can quest like a tribe does. Before this, did you really know what I was? Comprehend to the track force, why? Cause getting mentions on the tip of the vibe buzz. Rock and roll to the beat of the funk fuzz. Wipe your feet really good on the rhythm rug. If you feel the urge to freak, do the jitterbug. Come and spread your arms if you really need a hug. Afrocentric living is a big shrug. A life filled with, that's what I love. A lower plateau is what we're above. If you diss us, we won't even think of. We'll nip of the dog and give a big shove. This rhythm really fits like a snug glove. Like a box of positives, it's a plus love. As the trial flies high like a dove. Boy, this track really has a lot of flavor. When it comes to rhythm's quest is your savior. Follow us for the funky behavior. Make a note on the rhythm we gave ya. Feel free, drop your pants, yak your hair, ya. Do you like the garments that we wear? I instruct you to be the obeyer. A rhythm recipe that you'll savor. Doesn't matter if you're minor or major. Yes, the tribe of the game with a player. As you inhale like a breath of fresh air. Da Manhattan ci spostiamo in Europa e più o meno in quello stesso periodo, siamo nel 1990, ci spostiamo a Bristol, dove si formare un gruppo chiamato Massive Attack. cola, put down with mouth. This back disposing faces shaded in black. It's dominating as my color. The massive attack. Right now I hit it, kick it, flow smooth, hit little wicked. I take a small step, now it's a giant stride. People say I'm loud. Why should I hide? Only had a small taste. Questa è Five Man Army, tratta dal loro primo album nel 1991, Blue Lines, un album che in realtà poi non ha venduto tantissimo, ma che comunque ha messo agli occhi del mondo un genere nuovo, questo trip hop, che è un mashup musicale che prende origine dall'hip hop, dalle melodie soul, dal dub e dai campioni scelti. It's turbo, turbo and charge with a charge. I need a DG while bunch crew at large. Don't call me an officer, just call me a sarge. Mashing up the country, town and also abroad. Plan to go to America when I get a visa card. But getting a visa card nowadays isn't hard. So keep your ears peeled, I'll listen to every card. Tokyo City's one place that we told. Four technique plus two mixer ball. Sharper than a Wilkerson razor sword. When I was a child I played Studio One. My table then I graduate to Studio One. Cause these my nom de plume, you know the three's my pseudonym. And around my neck you know I wear the Sony Budokan. Indigo blue sugar, me in my own shoes. The people dancing in the shade for what they made they can't lose. Yes, waxing lyrical. Una storia in realtà che risale poi da lontano nel 1983, quando ci fu la formazione del Wild Bunch, uno dei primi sound system e collettivi di DJ ad arrivare sulla scena musicale del Regno Unito. E così, quando poi questo Wild Bunch si sciolse verso la fine degli anni 80, due dei suoi membri, Andrew Wolfert e Danny G, hanno collaborato con il graffitaro Robert Del Naya, mettendo su appunto una band chiamata Massive Attack. Quella che invece che sentiamo è anche la voce di Ora Sandy, che ha sempre partecipato ai dischi e alle tournée dei Massive Attack fin da questo primo album. E quindi influenze anche reg. Che poi in realtà per un periodo si chiamò solo Massive, proprio per evitare un qualsiasi implicazione dall'approvazione della politica delle Nazioni Unite nei confronti dell'Iraq e della guerra nel Golfo, nome che poi ricomparse per esteso in tutti gli album. Fermiamo ancora Bristol, ancora con i Massive Attack, e per sottolineare appunto la loro vicinanza con la musica giamaicana ci ascoltiamo un brano scritto da John Holt dei Paragons. Il brano è Man Next Door ed è tratto dal loro terzo album Mezzanine. Un una rivisitazione ben più industriale. da Bristol ci spostiamo a Birmingham, e più precisamente nello specifico nell'area del ghetto di Hunsford, dove tre compagni di scuola, David Nines, Basil Gabidon e Ronnie McQueen, nel 1975 diedero vita a una delle più grandi band britanniche, gli Steel Pulse. È il loro album di debutto, appunto, nel 1978, Hunsford Revolution, è ancora considerato da molti critici come un punto di riferimento e un punto culminante del reggae di tutta l'isola. E allora ci ascoltiamo la traccia di apertura, questa è Hunsford Revolution. Steel Pulse. Sempre fedele a roots, ma anche con influenze jazz e di musica latina. Ed è un gruppo comunque che ha saputo ritagliarsi anche un successo fra i bianchi del punk britannico. Un gruppo pienamente in attività, Steel Pulse. We'll be right back. Birmingham, ci spostiamo a Londra e qui ne approfitto per salutare Martina, un'amica della radio, un'amica di Ottavia, quindi anche di Tracce di Cinema. E allora a Londra per ascoltare un gruppo probabilmente reggae di maggior successo nella Gran Bretagna, sia in termini di popolarità che di longevità, e loro sono gli Ashwad con la loro I a Rebel Soul. Il cui nome significa nero in arabo, e si sono formati a Lanbrook Grove, West London, nel 1975. E il loro suono era già piuttosto eclettico fin dall'inizio, mescolando elementi di soul, jazz, funk con il roots, il lovers rock e il dub. E già nel 1976 gli Ashwad è diventato il primo gruppo reggae britannico a firmare con un'etichetta importante, ossia l'Island Records. Ashwad pure protagonisti di quel bellissimo film girato a Londra negli anni 80, Babylon. Gold frustration binds me, I'm confused. Yeah. rimaniamo a Londra e ci spostiamo però a Brixton, dove incontriamo un musicista, un politico, un giornalista, un attivista, un poeta. Il suo nome è Linton Kwesi Johnson, che nacque a Kingston nel 1952, ma poi ben presto si trasferì in Inghilterra e cantò sempre nelle sue poesie appunto gli afro-britannici trascurati dal governo Thatcher e perseguitati dalla polizia. Questo è appunto un suo brano di denuncia, England is a bitch. England is a bitch, bitch, bitch, bitch. England is a bitch, bitch, bitch, bitch. When me just come to London town, me used to work on the underground. But working on the underground, you don't get to know your way around. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch, there's no running away from it. Me get a little job in a big hotel, and after a while me was doing quite well. Them start me off as a dishwasher, but when me take a stock, me no turn clock watcher. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch, nobody try fi hide from me. When them give you the little wage packet, force them rabbit with them big tax racket. You have to struggle fi make ends meet, and when you go to your bed, you just can't sleep. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch for true, and no lie me, I tell a truth. Me used to work big bitch when it fool no bitch. Me did strong like a mule, but why me did fool? Then after a while, me just stopped the overtime. Then after a while, me just put on me tool. England is a bitch. Influenzato dai giamaicani Uroi e Airoi, il poeta appunto Linton Kwesi Johnson si fece aiutare dal bassista Dennis Bowell e appunto mise in musica, soprattutto in musica dub, le sue poesie. E sebbene comunque non avesse mai avuto intenzione di diventare successo, Linton Kwesi Johnson divenne ben presto una star in Inghilterra e anche in America, aveva un bel po' di fan. Ma per lui comunque l'attivismo politico era ben più importante che sfornare dischi e tournée. E nonostante l'uscita del terzo album, questo Bass Culture del 1980, appunto per l'Island, lui si è sempre dedicato comunque alla scrittura piuttosto che all'attività di artista. England is a bitch. Un artista comunque importante per la scena reg e dub inglese, ma non solo. Linton Kwesi Johnson. There's no running away from it. Me know I said them have work, work in abundance. Yet still, they make me redundant. Now at 55, me getting quite old. Yet still, them send me figure draw door. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch for true, is where we are got to bout it. We'll be right back. E nel 1982 la BBC commissionò anche a Linton Kwesi Johnson la creazione di una serie di programmi radiofonici sulla musica popolare giamaicana, e argomentando che appunto lui aveva studiato per molti anni. E quindi questi programmi intitolati da Mento a Lovers Rock erano più che una semplice storia musicale. Visto che siamo in Inghilterra, non possiamo non andare a Ronnie Scott, uno dei più importanti jazz club che ci sono in Europa e che c'è appunto a Londra dal 1959. E allora io questo brano lo voglio dedicare a Beatrice, appassionata di cinema ma anche di jazz, e che ama pure ballare il reggae. E allora Attica Blues è quello che fa per te. E allora abbiamo scelto un brano live appunto a Ronnie Scott, registrato il 6 giugno 1986. E lui protagonista è Chet Baker, e questa è But Not For Me. The bribing songs of blood, but not for me. The lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I owe, alas, a lack a day. Although I can't dismiss the memory of her key. Chet Baker, tromba e voce, Michael Grelier al piano, Riccardo Dalfrà al contrabbasso. Qui a Vele Volci e Attica Blues volge al termine. Siamo arrivati all'ultimo brano per noi. Marta è già pronta. ora noi concludiamo il nostro viaggio intorno alla black music in Inghilterra con forse il più grande jazzista inglese. Parliamo di John Surman, un intellettuale dei sassofoni, ma non solo. E allora ce l'ascoltiamo in un quartetto, in uno splendido quartetto, lui al baritono, Paul Bley al pianoforte, Gary Peacock al contrabbasso e Tony Oakley alla batteria. Allora, dall'album Adventure Playground, punto a firma di John Surman, del 1986, questa è Fig Foot. Questo splendido brano di John Surman, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. Attica Blues tornerà finalmente al gran completo con una puntata dedicata a Aretha Franklin. E allora, con noi l'appuntamento è sempre il giovedì alle 16, sempre su Radio Onda Rossa.